Ciao, sono Davide Cassani, sono al giro come commentatore tecnico e sì, devo comunque dare la linea al podcast a Gironimo. Sì, sì, va là, diamo la linea a Gironimo. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, del mare, del sole, del vento, delle località che se gli metti una R cambiano non solo località ma anche stato, benvenuti a una nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento, Italian Cycling Magazine dedicato al Giro d'Italia, realizzato con il supporto amorevole di Shimano Italia e con l'affetto che per qualsiasi figura del ciclismo prova Davide Cassani, la cui voce avete sentito in apertura e ringraziamo. Altre voci invece le sentirete durante questa puntata, nello specifico tre, oltre la mia, no, anche altre perché ci saranno intervistati e chi più ne ha più ne metta, Ricky Premi e Cotillon. Sentite anche il canto degli uccellini. Purtroppo ho disinstallato l'app che mi riconosce che uccellino è, però ho la fortuna di avere alla mia destra una ligure doc che magari mi sa aiutare a distinguermi. Benvenuta Marta Ma Bacigalupo. perché mi hai preso? Per Derek G? Magari. Ma insomma, comunque buonasera, io inizio già a sentirmi questa aria ligure di... mi sento meglio, mi avvicino a casa e quindi vi porto nella mia Liguria, come diceva quella. Liguria che è tua e di quella, ma è soprattutto di un uomo chiamato Michele Florindo Sebastiano Pelacci. No, Sebastiano non lo ricordavo, però è una bella alternativa. Sebastiano, tra l'altro, è uno dei santi più riconoscibili dell'iconografia classica perché ha sempre quelle frecce, Momento no? della cultura, come ce lo Sì, sì, sbatti sì, lì, sì. grande Adesso, così, Pelacci. subito, entriamo con una cosa successa oggi, Per il ok? momento ti avevamo solo tagliato la testa, se vuoi anche le spade, però, insomma. Voglio flexare un momento successo oggi, ovvero al buffet ci servono una lonza. E io Ok. dico, ah certo, uno degli animali della Divina Commedia. E voi dite, Non ma hai detto no, della Divina Pelacci, ma Commedia, no, ma va bene. Pelacci, ma figurati, ma cosa ne sai tu della Divina Commedia? Non è andata esattamente E così, poi ma... andiamo a vedere. Ciao Leonardo Piccione. Ciao, in tema di uccellini, appunto, eccomi. No, è un giorno importante oggi perché durante il giro succede sempre che a un certo punto io faccio una cosa che segna la svolta nel giro, compro la crema solare e oggi è arrivato quel giorno qui ad Andora. Poi queste creme si accumulano in un cassetto a casa perché Anche quando... sulla tua fronte in questo Anche sulla momento. mia fronte in questo Non so momento. se c'è anche quella dell'anno scorso. No, perché poi io quando torno dal giro le ripongo, andando in Islanda non è che ne faccia grande uso lassù, e poi quando invece il maggio successivo vengo al giro, nuovamente le Ma dimentico. per fortuna, perché la rubrica, un'altra rubrica così ci potete odiare, Dica 33, dice: non azzardatevi a usare le creme dell'anno prima perché scadono e poi non ti proteggono più. Approfitto della rubrica della salute per dire che noi ci siamo messi a registrare qui all'aperto su questa gradinata di cemento grigio, come deve essere il cemento. Il mio computer è al secondo piano, io sto continuando a fare su e giù con la sala stampa dove c'è il mio computer e le contratture che ho nel retrocoscia, che non so come si chiami muscolarmente, si fanno sempre più sentire. Per cui, sapendo che tutte le squadre ascoltano questo podcast, faccio un appello, sto cercando un massaggiatore che mi accolga nelle sue manone e mi rimetta a posto. Insomma, noi siamo Anch'io qua, i corridori lo fanno tutti i giorni, un massaggio in più, un massaggio in meno, non penso che sia un lo sto problema. cercando da anni da sposare, oltretutto, quindi nel Quindi caso. possiamo proporgli un pacchetto completo. Giornata importante di Giro d'Italia, l'avevamo detto, la giornata in cui Leonardo ha comprato la crema solare, la giornata in cui io ho fatto il mio primo contatto con l'acqua di mare, bagnandomi solo i piedi, il bagno intero. Non so quando lo farò perché c'è poco mare purtroppo a questo Giro d'Italia, ma è la giornata soprattutto in cui, come tutti i giorni, si può sentire il riassunto di No, tappa. un attimo, prima del No, riassunto non di lo tappa, no, sentiamo. c'è un momento altrettanto importante e atteso proprio dall'autore del riassunto di tappa, quello dell'acrostico, perché l'ho fatto anche oggi. Ma perché ce lo metti senza metterlo in scaletta per vedere se siamo attenti, cerchi Non lo di siete, non lo sorprenderci. siete. Comunque, siamo ad Andora, una città che non comprende nelle sue lettere né la M di Milan, né la J di Jonathan, evidentemente, né la T di Toro, né la B di Buia. Quindi non era semplice oggi, però ci ho provato lo stesso, quindi Andora. Accelerando nettamente domini due punti. Ossequi, ragazzo altissimo. Bellissimo, bellissimo anche questo. Volevo dire che questa, faccio un'altra citazione che Pelacci non coglie, è una rubrica ostica ma anche acrostica. No, in effetti non l'ho colta, piantiamo subito con le vostre fanfane e procediamo col riassunto di tappa. Prego, ce l'hai pronto? Sì, lo vedo sul tuo schermo, vai. Poco dopo la partenza, da Acqui Terme, si avvantaggia una fuga di quattro corridori, Ganna, Munoz, Calmejan e Debod. Non prendono grande vantaggio, fino a che Ganna rimane con loro, perché il gruppo non vuole far andare via un corridore così pericoloso, per cui gli chiedono di farsi riassorbire. Il vantaggio ora sì, che inizia a crescere, mentre in gruppo alcune cadute caratterizzano l'arrivo sul lungomare ligure. Vanno per terra, tra gli altri, Trentin, O'Connor, Rubio e Bini Girmay, addirittura due volte, cadute che lo costringeranno al ritiro. Le due squadre che si incaricano dell'inseguimento sono Riddle Trek e Sudal Quickstep, Visma Lise Bike in misura minore. I fuggitivi rimasti, cioè Debod e Munoz, vengono ripresi proprio ai piedi di Capomele, dove decide di attaccare niente meno che Filippo Ganna. È un attacco deciso e grandioso, a cui provano a rispondere Van Poppel, Fiorelli, Pasqualon, tutti senza successo. Ganna viene però ripreso ai 600 metri dall'arrivo e sul traguardo di Andorra è volata. La vince Cicla Milan, secondo e terzo Groves e Bauhaus. Ottima sintesi, come al solito, sono sempre ottime le sintesi di Michele Pelacci. È la prima volta però che metto gli occhi sul suo file della sintesi tappa, perché di solito se lo tiene per sé, come Leonardo si tiene per sé i suoi acrostici, e mi ero dimenticato il tuo trucco per non sbagliare le pronunce. Mi piace un sacco questo Munoz scritto col GN. Molto, molto utile, mi sembra. Ma andiamo a leggere l'ordine d'arrivo della tappa di oggi. Ha vinto Jonathan Milan su Caden Groves e Phil Bauhaus. A seguire Olaf Coe, Tim Merlier, Davide Ballerini, settimo Fernando Gaviria, ottavo Enrico Zanoncello. Aspetta, Zanoncello ti ricordo che è il velocista più forte del mondo. Beh, è molto bravo, più forte del mondo l'ha detto un suo compagno. Il suo compagno di stanza, Giulio Pellizzari. Giusto, Giulio Pellizzari in un'intervista dei primi giorni. Quindi ottavo Zanoncello, nono Medis Mikkels, dico bene? I suoi tifosi dall'Estonia ci hanno detto che si pronuncia così? Me l'hanno detto l'altro giorno e già me lo mi sembra Maidis. Ah, Maidis. Comunque Maidis. Li ho registrati, posso andare a verificare. Maidis Mikkels, no, comunque, è Giovanni. Mikkels si scrive Mikkels, quindi proprio come l'ha scritto Pelacci. E quindi poi Giovanni Lonardi, decimo. In classifica generale quasi tutto invariato, Tadej Pogacar sempre in maglia rosa con 46 secondi di vantaggio su Geraint Thomas. Terzo Dani Martinez a 47 secondi, Kian Uijdebroeks e Einar Rubio si sono riscambiati le posizioni per la terza volta consecutiva, oggi quarto è il belga Uijdebroeks con 55 secondi di ritardo perché ha guadagnato un secondo in un traguardo volante e quinto è invece Einar Rubio con 56 secondi di ritardo da Pogacar. A seguire tutti con più di un minuto di ritardo, sesto Fortunato, settimo Juanpe Lopez, ottavo Jan Hirt, nono Alexei Lukchenko e decimo Esteban Chavez, che ha superato Ben O'Connor, ma tutti e due hanno un minuto e 26 di ritardo da Pogacar. Cominciamo a entrare nel vivo dell'analisi di questa tappa, come al solito con la rubrica che abbiamo chiamato Giromanzia, cioè il tarocco del giorno, che a posteriori ci aiuta a spiegare o introdurre un tema della tappa appena o da poco conclusa. Marta. Ah, la carta che abbiamo pescato oggi mi piace tantissimo, è l'arcano numero uno, signori. Venghino, signori, venghino. È l'archetipo dell'energia ed è il bagatto. Il bagatto è il fanciullo, il giovanotto, il ragazzo. E indovinate a chi fa riferimento il nostro tarocco? A Domenico Pozzovivo? Esattamente. Pensavo a Michele Pelacci. Guarda, c'è solo un po' di differenza di taglia, però il piglio fanciullesco direi che è lo stesso. Il nostro Johnny Milan, infatti, è proprio la rappresentazione del nuovo inizio, della risorsa, dell'energia motivazionale, della fanciullezza, dell'azione, della capacità, dell'intraprendenza, del merito dei risultati, ma è anche chiamato il bagatto, il mago. E infatti, indovinate un po' con chi ha fatto staffetta, con chi si è scambiato la maglia ciclamino, proprio con Tim Merlier, con il mago. E tra l'altro ieri era la nostra puntata sulla magia, siamo stati al Museo della Magia e oggi invece quasi magia. Johnny. Ecco, adesso magia. Abbiamo tagliato fuori. Oh, è quasi magia. Adesso di nuovo mi avete rovinato tutta la poesia e abbiamo tagliato fuori tutta la Gen Z praticamente dal nostro audience, quindi ho detto due bonus nel maialino delle parole in inglese, quindi Però questa te la concedo perché Gen Z, perché questo vuole essere un podcast che non guarda la Gen Z. Dovrà essere la Gen Z a guardare a noi. Comunque, vabbè, insomma, la carta di oggi ve l'abbiamo raccontata. Milan, appunto, ha detto che in questo suo estro creativo, perché il bagatto rappresenta anche la capacità di mettere in campo la creatività, a un certo punto se l'è vista un po' quando c'è stata l'azione di Ganna, gli hanno chiesto anche se per caso si fosse spaventato, ha detto ma spaventato no, però insomma gli ha dato un attimo da concentrarsi, da pensare. Sì, di preciso ha usato un neologismo forse, ha detto panicamento, no? Una parola che non penso esista. Impanicamento però l'ho già sentito, il panicamento è una versione accorciata. Forse friulana, non lo so. Non lo sappiamo. Però ha detto che si aspettava per certi versi un attacco di Ganna, però è rimasto calmo, è rimasto sulle ruote dei suoi compagni di squadra, ha avuto parole di elogio per Teuns, Stuyven e con Sonny. Leo, è stata una bella volata anche oggi, no? Andorra? Una bella volata, raramente Milan perde a queste velocità, una volata molto veloce, quella sì, di oggi. E la creatività che ha citato Marta, secondo me, fa più riferimento alla scelta tattica di non disputare i traguardi volanti. Oggi Milan non ha sprecato o speso energie nei traguardi volanti e ha detto, ha conservato quella forza, quella riserva di energia appunto per lo sprint finale che ha vinto abbastanza nettamente. Hai fatto bene a sottolineare questa cosa perché arrivati ai meno 200 metri circa, è vero, ha fatto un ottimo lavoro la Lidl Trek oggi, ma appena appena lunga secondo me, cioè per 100 metri c'è stata l'incertezza di, forse 50 metri, l'incertezza di Milan, Merlier e Coy tutti appaiati. Lì quasi si sono toccati Coy e Milan, e lì Milan ha avuto bisogno delle gambe. Lì ha avuto bisogno delle gambe, e sono gambe da 1940 watt, dice velon.cc, il picco esatto. È una potenza abbastanza clamorosa, direi. Credevo euro. No, direi. Io pensavo fosse l'anno di nascita. Direi il... Diresti, pelacci, direi... cosa diresti? Direi che come potenza pura al momento è il velocista più forte del mondo. Allora, non lo so. E non so neanche dirti se sia il corridore italiano più forte del momento. O meglio, io, magari un'idea ce l'ho, in realtà no. Ma quello che non te lo sa dire è lui. Perché ha una precisa richiesta, perché la terza vittoria World Tour italiana quest'anno, tutte e tre, di Jonathan Milan, lui ha detto semplicemente, questa cosa dovete deciderla voi. È stato molto chiaro. Si rimette alla giuria, diciamo. Fortunatamente noi non siamo dei giurati, per cui non dobbiamo deciderla. Ma c'è anche un elemento simbolico importante. Ieri Merlier aveva vinto nella tappa che partiva da Novara, dopo aver vinto la sua prima tappa al Giro a Novara, e oggi Johnny Milan ha vinto nello stesso giorno, il 7 maggio, in cui aveva vinto l'anno scorso a San Salvo. Quindi i velocisti di questo giro amano la simbologia, mi sembra, sì, di poter dire. Ti sei inserito nella Pelacci Analytics, adesso tocca cambiare nome alla rubrica. No, io le mie sono più affidabili sicuramente. Essendo una rubrica che abbiamo rubato a un altro podcast, possiamo farne un po' quello che vogliamo. No, però soprattutto gliel'hai un po' tirata, perché dopo quella vittoria Milan non ha più vinto lo scorso Giro d'Italia. Speriamo vinca ancora, possiamo dirlo. Avrà molte occasioni e sono fiducioso che succederà, perché lui è migliorato da allora, è cresciuto molto da tanti punti di vista, non dell'altezza, era già alto così l'anno scorso. Magari è cresciuto un po', cioè, Bisognerebbe andare a casa a Milan, dove come in tutte le case sullo stipite della porta viene fatta la riga con la matita, e vedere se quest'anno la riga magari è un millimetro più in alto. Ma torniamo al treno di Jonathan Milan, grande lavoro. Michele ha già citato Stuyven e voglio citarlo anch'io, perché è un corridore di prima grandezza che in questo giro sta facendo invece il primo frazionista. Ho sentito dire oggi in TV, credo da Davide Cassani, con una definizione molto bella. Sta recuperando dall'infortunio, quindi non è al massimo. Avere a disposizione un corridore come Stuyven, poi Teuns e poi con Sonny nel proprio treno, insomma, aiuta anche Milan a fare quello che fa. E il treno è sempre il treno. Il treno è sempre il treno, e andiamo ad ascoltare la voce dell'ultimo vagone di questo treno. È compagno di stanza di Jonathan Milan, grande amico. Oggi Jonathan Milan in conferenza stampa ha definito quella tra lui e Simone Consonni una vera amicizia. Simone, ti chiediamo tutti la stessa cosa, per cui non la ribadisco del ruolo del quartetto in questo finale di tappa, ma voi avete tipo un gruppo WhatsApp, c'è qualcosa in cui ci siete tutti quanti? Sì, assolutamente. Parte da lontano, da quando io non ero ancora, penso, juniores, quindi è un gruppo storico. Adesso mi do dell'auto vecchio, vabbè. E no, c'è tanta sintonia da noi della pista e questo era il primo obiettivo importante della stagione. Siamo arrivati tutti e tre con buona gamba perché Pippo ha attaccato, ci ho provato, io sono riuscito a chiudere su di lui purtroppo, per fortuna, e no, Gianni è stato incredibile, penso che ha dimostrato anche ieri una condizione eccellente, quindi siamo contenti. Ma vi prenderete anche un po' in giro su questo gruppo WhatsApp, cosa succede stasera secondo te? Grande casino. Grande casino. Bene così, dai, andiamo a recuperare. Viva, complimenti. Grazie. E sarei curioso di leggere questa chat interna del gruppo pista del quartetto questa sera, siccome ne hanno di materiale per prendersi in giro a vicenda, però è un bel segnale anche di come è cresciuto questo movimento grazie al lavoro straordinario che ha fatto Marco Villa, che sappiamo bene come ha plasmato questi ragazzi nella loro crescita. E così, fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile immaginare anche solo un finale di tappa in cui tre uomini chiave del quartetto e dell'inseguimento italiano sono lì a battersi per la vittoria di tappa. Ne approfitto per sottolineare la bellezza dell'azione di Filippo Ganna, come l'ha definita, splendida, mi sembra, Michele Pelacci, ed effettivamente grandiosa, credo. Grandiosa, ed effettivamente brava. Ganna era un po', l'ho captato passando di fianco durante l'intervista, invece lui era un po' lì che, come spesso capita, stava un po' sminuendo l'azione, diceva ma sì, boh, ci ho provato. Invece un bel segno di carattere. Le gambe forse non sono ancora le migliori, ma mi sembra che anche a gambe non stia mica andando male. Tra l'altro diceva, appunto, sono già usciti diversi articoli, diverse dichiarazioni, diceva che lui non l'aveva pianificata per niente, ma evidentemente proprio gli è scappata la gamba. Evidentemente sì, chiuderei la parentesi su Johnny Milan in attesa di riaprirla, magari già domani, chi lo sa, con un'altra statistica, come è? Analytics? Dobbiamo fare la piccione Analytics. Sì, no, adesso. Ma questa è carina. È il secondo Jonathan che vince in questo giro, però scritto in modo diverso dal primo, perché il primo era Jonathan Narvaez, che si scrive J-H e poi il resto del nome, invece Jonathan Milan l'H va dopo la T. Però è il secondo che si chiama in questo modo, quasi. Mi sei piaciuto? Ne vuoi un'altra inutile? Sì, prego. Abbiamo un altro ritiro oggi, è Thorsten Train. Non è inutile, però è una brutta notizia. È una brutta notizia. No, inutile nel senso che volevo dirti che si è ritirato dopo 372esimi posti consecutivi. Ah, in questo giro? In questo giro. Questa era bella. Questa riconosco, aveva un suo perché. Questa si chiama consistenza. Torniamo alla tappa di oggi, a quello che è successo prima della volata, perché c'è stata una fuga. Uno dei protagonisti della fuga è il leader di due importanti classifiche che al momento... Una è la più importante. Una è la più importante, che è quella dell'Intergiro. Chiaramente. E poi anche quella delle fughe. E stiamo parlando di Lilian Calmejean della Intermarché Wanty. Scusa, vorrei che tu lo pronunciassi come si conviene nel frentaccio. Lilian Calmejean. Sì, no, l'ho detto bene, va bene come l'ho detto. Lilian Calmejean, che comunque parla un ottimo inglese, per cui ci sorprende così. L'ho riassumato, lo diciamo, è di qualche giorno fa questo scambio di battute con Lilian Calmejean, che era rimasto lì perché non aveva ancora trovato posto in questo podcast. Ma devo dire che il giro di Lilian Calmejean mi fa capire come questa cosa che mi aveva detto già il secondo giorno, che a me sembra tre settimane fa, in realtà è l'altro ieri, abbia insomma uno scopo chiaro e una forte impronta di divertimento. Per cui questo è quello che ci aveva detto Lilian Calmejean dopo che nella tappa di Torino era stato inquadrato mentre faceva quella gag in cui fingeva di leccare il suo ciclocomputer. Questa slinguazzata al computerino. No explanation, sometimes in life you cannot explain all your behavior, but I think it was just funny, no? Yeah, it was definitely. So yeah, you were happy. Just some fun. Yeah, happy and yeah, some adrenaline in front of the race. And especially when you ride so fast in a descent like this, in the higher position, was just to have fun. So you still have a lot of fun when riding? Yeah, for sure. Yeah, but not every day. But when you are in front of the race and you enjoy, you need to take this moment like adrenaline, because 90% of the moment in World Tour is suffering and really hard. So that was just funny. Merci beaucoup. You give fun also to us. Yeah. That was the goal. Have a nice day. E dunque, alla domanda sul perché avesse fatto quel gesto, lui mi ha detto semplicemente: non ho spiegazioni, a volte nella vita non puoi spiegare il tuo comportamento, ma credo che sia stato divertente, no? Era solo divertimento, ero felice, ero in testa alla corsa, specialmente quando vai così veloce in discesa in posizione aerodinamica vuoi particolarmente divertirti, e io mi diverto tanto. Ovviamente non sempre, ma quando sei in testa e te la godi, devi viverti questi momenti come scariche di adrenalina, perché il 99% del World Tour è sofferenza. E quindi l'ho ringraziato perché divertendosi fa divertire anche noi, e lui ha risposto: era anche questo il mio obiettivo. Molto bene Lian Calmejan. E in tema di gente che si diverte, o forse no, o forse solo un po', in questo Giro d'Italia, passiamo a parlare rapidamente quest'oggi della maglia rosa di Tadej Pogacar, che abbiamo rivisto in conferenza stampa. L'ho visto un pochino, un filo più rilassato di ieri, forse perché era meno coinvolto, è stato meno coinvolto nel finale, il primo giorno di questo giro in cui non ha attaccato Tadej Pogacar, quindi rileviamo questa statistica, se è una statistica. Io gli ho chiesto: ma quando è partito Ganna hai avuto l'istinto di seguirlo? E lui ha detto: non ero in buona posizione, che non è un no. Quindi forse c'è stato questo istinto di seguire anche Ganna oggi, però non era nella posizione giusta. Comunque, secondo me, non ha attaccato anche perché ha rischiato la squalifica, dicono. Per la nostra rubrica, invece, Fashion Police, diciamo che il ciclamino gate è arrivato all'estremo, quindi pare che ci sia stata una telefonata da UCI che abbia detto che quel pantaloncino, no, la parte diciamo di body ciclamino non era regolamentare, quindi oggi siamo tornati ad un palermitanissimo nero e rosa col pantaloncino appunto nero, che ricordiamo Kautz dice che il pantaloncino, i pantaloncini da ciclista sono neri, per cui si è messo quelli che mi trovi abbastanza indossano. D'accordo, mi hanno detto che abbiamo rischiato tutti l'arresto perché noi ovviamente avevamo detto che invece eravamo d'accordo col pantaloncino ciclamino, quindi tutti al gabbio. Allora, siamo arrivati in Liguria, c'è un gran bel sole, siamo messi tutti in pantaloncini corti, vicini a casa di Pogacar, no? Che abita non lontano da qui, focaccia, assonante con Pogacar, tutto bellissimo. Io però, in definitivo, mi piacerebbe un turn hill di Pogacar, un suo definitivo passaggio al lato oscuro. Questo però non lo so nemmeno tradurre. Appunto, non so cosa voglia dire. Definitivo passaggio al lato dei cattivi, non lo so. Ah. Io vorrei chiedergli se lui, guardando i film, empatizza più con i buoni o con i cattivi. Non lo so, vabbè. Prova a chiederglielo. Io invece gli ho chiesto una cosa, ci tengo a menzionarla, perché è una domanda che ci è stata posta nel nostro gruppo Telegram dei nostri ascoltatori da Francesca C, che ieri ha scritto: mi piacerebbe che chiedessero a Poggi quale sia la squadra avversaria che ritiene più pericolosa. Francesca C, chiaramente uno pseudonimo. Può darsi. C'era una ciclista che si chiamava Francesca Kautz, era anche... Sì, non era anche forte, è durata poco. Vabbè, ma comunque, non divaghiamo. La squadra è più pericolosa non per il singolo corridore, ma nella squadra, nel suo insieme. Io ho riportato paro paro la domanda da Pogacar, e quindi facciamo un servizio pubblico. Ecco la risposta di Poggi, che diceva che gli sarebbe venuto a dire Ineos, perché oltre a Thomas aveva Arensman e Foss, però ha visto che hanno già perso tempo. Per cui in questo momento dice che forse la Bora, che è quella che ha due uomini in classifica generale, ma gli fa un po' paura anche la Bahrain, perché sostiene che la Bahrain abbia più carte da giocarsi. Cioè Caruso e Tiberi, le due carte evidentemente. Della Bahrain. Naturalmente, quindi comunque ha chiuso con un salomonico, o meglio bugnonico, nonostante non porti la maglia rosa alla prima tappa, che è, più avanti vedremo chi sarà più pericoloso. Va bene, e chiudiamo la parentesi su Tadej Pogacar con un altro episodio del Pogacario, quindi qualche scoperta fatta sul suo conto attraverso fonti che non sempre si possono rivelare, insomma. Scoop! Oggi siamo andati a scoprire nel Pogacario quali sono gli amici più vicini di Poggi, visto che l'abbiamo visto comunque scherzare sia sui social che appunto parlare anche molto bene in conferenza stampa con G. Abbiamo invece cercato di capire, a parte G, quali sono i suoi amici in gruppo, e sicuramente sappiamo che praticamente uno dei suoi BFF è Blink Matthews. Sì, perché abitano vicini a Monte Carlo, escono assieme, poi la sua fidanzata Urska è in squadra appunto nella stessa società di Matthews. La Jayco. Esatto, per cui allora lui sicuramente, poi sappiamo che si trova molto bene, molto amico di Tim Wellens, che vabbè non è qui al giro, e anche con invece Domen Novak, che è, appunto è qui, con cui è amico storico e fraterno da moltissimo, si trovano molto bene, si frequentano, eccetera. Ma sappiamo anche che è nata questa nuova sintonia, si sono presi subito con uno dei più fighi di tutti i tempi, sarà uno dei più fighi di tutti i tempi, Del Toro. Hanno fatto insieme due corse che non dovevano, in teoria non erano nel programma appunto della loro stagione, e niente, è stata subito magia. Johnny. Faccio finta di essere intellettuale. Benicio Del Toro? Ci piacerebbe, però diciamo che il grip e il fascino sono quasi gli stessi. Li vedo del potenziale. No, è un'altra lingua che potrei imparare, forse il messicano, ma per adesso sono impegnato abbastanza con una cosa un po' più orientale. Ti lanci da solo il giapponese. Ma se ti bravissimo. Va, sì, passerai a quel momento non lì. È che io non decido niente, decide tutto il sensei. La parola del giorno. Kyono hitokoto. Volata. Sprint. Sprint. No, ma non ci credo, dai. È fake oggi. È fatto apposta proprio per non mettere in crisi. Ma non è che anche il sensei è entrato nel fan club di Michele Florindo Callisto, Shokuro Pelacci, Tetsuo Pelacci, e vuole favorirlo? Devo ancora ripeterla comunque, sprint. Dilla con un tono più da sensei. Sprint. Così è già meglio. Ottima pronuncia, secondo me siamo già un B1. Grazie ai laboratori tecnologici della Fufas Corp, oggi hai la possibilità di ricevere a casa tua una nuova tecnologia all'avanguardia. Un assistente virtuale di ultima generazione, in grado di rispondere alle tue più profonde esigenze. I nostri scienziati hanno creato Giri. Ehi Giri, quante sono state le edizioni del Giro d'Italia? 4? Non è possibile, saranno almeno un centinaio. Allora lo sapevi? No, non lo so, ma non possono essere 4. Allora diciamo che sono 7. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Con Giri finalmente non avrai a disposizione più informazioni. Con Giri non avrai risposte alle tue domande. Ma con Giri ti sentirai più intelligente. Più intelligente di lui, di Giri. Giri? Quando passa il prossimo pullman per il centro? Tu vai alla fermata. Quando lo vedi arrivare, allora vuol dire che sta arrivando. Lasciamo perdere. Giri, benvenuti nel futuro. Benvenuti nella stupidità artificiale. Ehi Giri, potresti dirmi tutti i nomi di Michele Pelacci? Ma cos'è questa cosa? Io lo voglio, finalmente una tecnologia che mi sembra... Sai che botte di autostima che ti dà questa tecnologia? Finalmente nell'epoca della stupidità artificiale. A proposito di giri, oggi abbiamo fatto giri molto particolari, siamo stati in posti molto belli, significativi, uno ciclistico, uno no. Ora sentite dove siamo stati. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove son nato, non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire «Ecco cos'ero prima di nascere». Questo è l'incipit de La Luna e i Falò di Cesare Pavese ed è stato riprodotto da un calligrafo su una delle pareti della struttura che ci ha ospitati nella nostra notte nelle Langhe a Santo Stefano Belbo, che è il paese di origine natale di Cesare Pavese. E che struttura è quella in cui ci troviamo, Carlo? Allora, qui siamo a Vigne di Fagnano, a Santo Stefano Belbo, è un relais che è aperto da poco. L'idea era quella di recuperare una struttura storica di queste colline che risale a inizio Settecento essendo una struttura molto legata a questi luoghi, essendo una struttura pavesiana per ispirazione, per emozione, abbiamo voluto ovviamente dedicare un'attenzione a Cesare Pavese. Tutte le stanze sono intitolate a un suo romanzo, non abbiamo televisione in camera, ma offriamo agli ospiti una selezione molto accurata di testi da leggere, proprio perché questo è un luogo che richiama le emozioni che si ritrovano nelle pagine di Cesare Pavese. E poi c'è una vista meravigliosa sulle colline che sono anche ideali non solo per l'ispirazione letteraria ma anche per quella ciclistica, perché voi avete anche questo desiderio di rendere questo posto un punto di riferimento per chi va in bicicletta, giusto Manila? Sì, esatto, noi siamo dei ciclisti, è uno dei motivi per cui ci siamo trasferiti, non nascendo qui, ma ci siamo trasferiti in questa zona, è proprio la bellezza del territorio e la possibilità di fare tanti sport all'aria aperta. La bicicletta è lo strumento, è il mezzo migliore, perché si possono fare tanti chilometri immersi in questo mare di colline. E da ciclisti noi stessi sappiamo quali sono le esigenze del ciclista, da attenzione al cibo, alla colazione, ma anche a letti comodi in cui riposare, in modo da allenare e riposare bene la gamba per il giro del giorno dopo. E allora noi proseguiamo, anzi iniziamo il nostro viaggio di oggi, non in bicicletta, in auto, perché dobbiamo anticipare i corridori, andiamo verso Acqui Terme, ma prima ci fermiamo giù in paese a Santo Stefano Belbo, dove sosteremo presso la Fondazione Cesare Pavese. Grazie a voi per l'ospitalità e a presto. Grazie, a prestissimo. Grazie e buon viaggio. Allora, il semaforo è verde, possiamo andare, e la Fondazione Cesare Pavese dovrebbe essere lì, guarda, sulla destra. Ok, fantastico. Io non so niente di Pavese, ma mi direi tu, eh? Vediamo, vediamo. Allora, non siamo esattamente sul percorso di tappa quest'oggi, però già che dormivamo a Santo Stefano Belbo, che fa parte del nostro viaggio, era inevitabile muoverci fino alla Fondazione Pavese, ed eccoci qua dove ci accoglie Silvia Boggian. Ciao ragazzi, ben arrivati, siamo alla Fondazione Cesare Pavese, nello specifico adesso ci troviamo in biblioteca, la biblioteca civica. Nella stessa struttura abbiamo anche un museo dedicato allo scrittore. Raccontaci qualcosa di più della storia di questo luogo e di come Cesare Pavese, diciamo, plasmi anche queste terre nel suo immaginario. Beh, allora, sicuramente queste colline che adesso avrete anche potuto vedere sono state la fonte di ispirazione dello scrittore, questa natura, questo paesaggio in cui lui amava immergersi. E poi possiamo anche provare a legarlo con la bicicletta, visto che sarebbe voi fantastico. Siete... Allora, non c'è proprio un legame letterario tra Pavese e la bicicletta, però diciamo che c'è un fil rouge, in quanto possiamo pensare al pedalare, all'andare in bicicletta, e quindi questa lentezza che ci permette, non forse il caso dei ragazzi del Giro d'Italia, perché proprio tanto lenti non lo sono. Però è il caso nostro se andiamo in bicicletta, per cui va bene. A caso mio. Tranne Michele, noi comuni mortali. Infatti sta già cercando i libri per capire. A questo andare in bicicletta, quindi a questa lentezza e quindi questa possibilità di vedere il paesaggio, la natura che ci circonda e che ha circondato Pavese. Poi in particolare, se noi partiamo da un protagonista di uno dei racconti contenuti in Fiere d'Agosto, il Campo di Gran Turco, c'è questo ragazzo che appunto con la bicicletta sta pedalando, no? Su e giù da queste colline. A un certo punto arriva davanti a questo grande campo di grano turco e con la sua bicicletta si ferma. Si ferma e dice: questo è un posto dove ritornarci. Ti fermo perché ce l'ho qua. Ah, fantastico! Ma guarda, vedi? Per leggerlo, perché è un passaggio bellissimo. È bellissimo. Chi lo legge? No, ma perché su questo, tra l'altro, su questo, proprio su questo racconto, Campo di Gran Turco, abbiamo estrapolato la frase guida del Pavese Festival del 2023, quindi questo è un racconto a noi molto caro. Ma lo lascio leggere a te. Va bene, volentieri, perché mi piace molto questo passaggio. Dice così: il giorno che mi fermai ai piedi di un campo di Gran Turco e ascoltai il fruscio dei lunghi steli secchi mossi nell'aria, ricordai qualcosa che da tempo avevo dimenticato. Dietro il campo, una terra in salita, c'era il cielo vuoto. «Questo è un luogo da ritornarci», dissi, e scappai quasi subito sulla bicicletta, come se dovessi portare la notizia a qualcuno che stesse lontano. Ero io che stavo lontano. Ecco, proprio questo. Giuro, non ci eravamo messi d'accordo, era proprio questo il passo a cui mi riferivo. E quindi questo anche. Idea del fermarsi, quindi del silenzio, questo lungo silenzio che permette di mettere in contatto l'uomo con la natura, quindi il silenzio dove poi ecco c'è il mito, che è uno dei temi tanto cari a Pavese, no? Una domanda, Silvia, esiste a Santo Stefano, immagino di sì, un turismo letterario? Cioè persone che vengono qui per vedere i luoghi dove sono ambientati molti dei romanzi, degli scritti di Cesare Pavese? Assolutamente sì, e per fortuna noi qui a Santo Stefano abbiamo una serie di, appunto, di luoghi pavesiani, luoghi in cui ha vissuto, in cui è stato, in cui ha avuto a che fare Pavese, ma in generale abbiamo poi vabbè, anche quelle che sono le colline, il paesaggio di cui Pavese ha scritto. C'è una sorta di pellegrinaggio, no? Se uno lo fa in bicicletta è proprio Sarebbe perfetto. fantastico. Ci abbiamo anche provato, l'abbiamo anche fatto anni fa, anzi, potrebbe essere un suggerimento per il prossimo festival. L'abbiamo fatto alcuni anni fa con le bike, però, perché noi Ah, siamo va bene, pigri non e siamo contrari, non non ti siamo allenati ad andare preoccupare. su e giù da queste colline, quindi non con la muscolare, ma con la bicicletta elettrica. Abbiamo fatto un percorso sui luoghi pavesiani, chiaramente con la bicicletta, quindi quasi proprio per arrivare a e soprattutto raccontare Pavese. Con una chiave un po' diversa. Se ci pensiamo, in tutte le sue opere, Pavese racconta, i suoi protagonisti, i suoi personaggi sono ragazzi giovanissimi. Questo perché Pavese ha voluto comunque inserire, mettere nelle sue opere il giovane che forse lui non è mai riuscito ad essere. Quindi Pavese è tutt'altro che quella persona cupa, no? Nera, ombrosa, che per troppi anni la critica ha etichettato in questo modo, è tutt'altro. Io ho un'ultima domanda, se, velocissima. Ci dici qualcosa di Pavese riscritto per Twitter, che io ricordo? Quello è un progetto che è nato, e tra i tanti con Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese, e con il suo staff di Twitteratura. C'è questa. Ancora, è ancora vivo questo progetto che ormai si è completamente sviluppato ed è un'attività bellissima perché permette di rileggere Pavese e poi riscriverlo nella lunghezza di un tweet. Quindi è questa capacità di rilettura e di sintesi, che poi la sintesi era una di quelle. È una di quelle caratteristiche di Pavese, no? Lui è stato innovativo perché ha riportato nella letteratura italiana un qualcosa che lui aveva appreso dalla letteratura straniera, in particolare la letteratura americana, no? Questo modo di scrivere asciutto, sintetico, no? Senza perdersi in mille subordinate, creare dei periodi molto lunghi, soggetto, verbo, predicato. E quindi questa è una cosa che in maniera simpatica si fa con i ragazzi, perché poi è un'attività rivolta principalmente alle scuole, ma non solo, perché poi c'è anche tutta un'app e quindi chiunque poi può partecipare. Viene proposto un autore, un testo nello specifico, si danno i tempi di lettura e poi via, parte il gioco. Appunto, è un gioco, ma in realtà è una rilettura di un autore e una riscrittura in sintesi. Fantastico, grazie mille per questo incontro, ma per il lavoro che fate, che è fondamentale, perché tiene viva una figura attuale, come hai detto tu, e la tiene viva nell'oggi, per cui vi ringraziamo molto. Grazie a voi perché nonostante facciate un altro mestiere, girate l'Italia in bicicletta, siete arrivati a Santo Stefano, avete pensato a Pavese, ci avete dato la possibilità di raccontarci e raccontare un grande autore. Grazie. Come direbbe, buon viaggio, Cesare Pavese. Arrivederci. Ah, adesso che sono io alla guida di Nerone, mentre questi tre lavorano, me la godo qua tra i noccioli. Abbiamo lasciato la fondazione e adesso ci dirigiamo in un posto fighissimo, il Museo della Bicicletta. Eccolo, eccolo là, guarda. Orsù Marta, arrestati tosto. Vado. Eccoci, finalmente erano anni che volevo venire in questo posto e il Giro d'Italia mi ci ha portato, anche se non passa qua davanti. Abbiamo una polemica del giorno, però le scritte sull'asfalto già dicono Luciano Luciano, siamo al Museo della Bicicletta di Cosseria con... Leszek Berruti, il figlio maggiore di Luciano. Allora, Luciano Berruti, forse può essere che ci siano due o tre persone nel mondo che non sanno ancora chi è. come lo possiamo riassumere? Ci vorrebbe una trasmissione intera, però in pochissimi secondi. E io posso dire che era mio papà, quindi no, mio papà è venuto alla ribalta con il mondo del ciclismo vintage. Lui è un grande appassionato del ciclismo del passato e ha trovato il suo ambiente naturale con l'eroica e pian piano negli anni è diventato un'icona di questa manifestazione che tutti gli appassionati conoscono. Era una persona semplice che trasmetteva tutta la sua passione e tutto l'amore per questo sport. E siamo circondati dalla storia del ciclismo, da quelle che io mi ricordo tuo papà amava sempre chiamare non biciclette d'epoca, ma biciclette vecchie. Sì, sì, lui era così, una persona semplice che dava i nomi suoi giusti, come riteneva opportuno lui. Qua, grazie alla sua collezione, che comunque lui è riuscito a trovare questo spazio e ha sistemato tutte le sue biciclette che gli hanno anche regalato e ha trovato in giro. Ha voluto poi incorniciare questo ideale percorso che troviamo qua sulle biciclette con queste maglie di tutte le epoche, di tutti i colori, che fanno una degna cornice per le biciclette. Sono una coreografia bellissima. Lui le voleva così, disordinate, come sono i ciclisti in gruppo. Questo wow. Qua è il primo Garibaldi originale del 1909. È uno spettacolo. Pazzesco. E raccoglie tutte le informazioni che una volta avevano i corridori. È un documento raro che noi custodiamo con orgoglio e vogliamo mostrarvi perché diciamo che racchiude un po' tutto quello che sono le indicazioni che adesso si possono trovare sui vari siti internet. Qui era tutto su carta, preparato e molto dettagliato, come potete vedere sfogliando. Ma non è così diverso dal Garibaldi attuale, cioè, forse più foto in stile settimana enigmistica rispetto alle mappe. Esatto, diciamo, è una chicca. Lungo il piano lombardo. Vedete qua, 8 tappe, 2500 chilometri. Un altro bellissimo esempio di questo caso qua, che noi abbiamo un manifesto unico al mondo. Qui i francesi, dobbiamo dire, ci sono avanti rispetto a noi. Vediamo qua. È chiarissimo, metto qua, Lucien Petit Breton a sinistra e niente poco di meno che Napoleone. Napoleone con la sua piccola lista di vittorie delle battaglie, imbronciato e sminuito rispetto a colui che in un solo anno aveva tutta una serie di vittorie incredibili. Ultima cosa che noi ci teniamo tanto, perché il ciclismo è uno sport, è bello il fair play, però nelle sue origini soprattutto era una battaglia. Partecipava la gente povera che magari vedeva nel ciclismo la possibilità di mangiare, stare un po' meglio e ovviamente l'approccio alle corse era un po' diverso di quello di adesso, ma ci sta giustamente, non voglio sminuire né andare contro. Però siccome era un morte tua, vita mia, abbiamo mio papà restaurando e mettendo le mani su tutte queste biciclette ha trovato questa cosa qua, un manubrio che lui diceva, c'è un manubrio che suona. Ce n'era un manubrio che suonava, era semplicemente una scorta di bullette. Aspetta, dentro... dobbiamo spiegarlo, quindi abbiamo tolto un tappo dal manubrio ed era pieno di chiodi, esatto. Di puntine, quello che sia, che questi chiodi qua, utili se eri in fuga, ti agevolavano parecchio. Quindi capisci che se io butto questi chiodi qua dietro dove passo io, è probabile che una mano me la diano. Lo spirito straordinario di tuo papà, che io ho avuto la fortuna di incontrare purtroppo in pochissime occasioni, dove vive nel ciclismo ancora oggi, nel ciclismo che stiamo per andare a vedere di corridori? Guarda, abbiamo avuto un esempio bellissimo ieri. Pogačar che attacca una tappa che non ha senso e tenta, cioè si trova lì e prova a fare qualcosa, cioè via tatticismi, via tutto quello che ha modellato un po' il ciclismo di adesso, però è anche quello, istinto e sofferenza, è correre sulle ali di qualcosa indefinito, che però ti spinge ad andare avanti. Velacci, come vuoi concludere questa visita? Io la forse, tua meraviglia. Sai che io ho fatto la tesi sul ciclismo eroico, parlo di tutta la letteratura di quel periodo, sono molto affascinato da quello che era all'epoca e quindi forse mi trasferisco qua. Ho deciso, mi spiace, ciao, ultima volta che mi sentite in questo podcast, addio. Giornata densa. piena, bella. Di bellezza, di belli incontri, di bei luoghi. E devo solo cospargermi un attimo il capo di cenere perché ho detto che eravamo a Cosseria, invece è Cosseria. Se non ricordo male la pronuncia, ma sicuramente non era Cosseria, dai nostri amici del Museo della Bicicletta Luciano Berruti, che invito anche a seguire su veloretro.it. Ma torniamo al ciclismo, quello attuale, quello pedalato, quello del Giro d'Italia di questi giorni, con un incontro con un altro esordiente che abbiamo sottoposto al nostro solito spietato test d'ingresso al Giro d'Italia. Ne abbiamo approfittato per fargli un paio di domande in più. È un campione del mondo, anche se non potrà vestire la sua maglia iridata perché è relativa alla categoria Under 23, ed è Lorenzo Milesi della Movistar. Lorenzo Milesi, tuo primo Giro d'Italia, sei uno dei tanti esordienti di questo Giro d'Italia, giro che è iniziato con un bagno di folla. Ho visto sui social grande entusiasmo per una tua borraccia regalata a un tifoso. Ti ricordi questo momento sulla salita di Europa? Sì, ma mi ha rincorso e gliel'ho passata al volo. No, è davvero bellissimo essere qua al primo Giro d'Italia, è un'emozione grande, sono davvero contento di essere qua. Ho fatto un bel lavoro di preparazione in altura, quindi con il team che dovrò aiutare Fernando a posizionarlo il meglio possibile dentro l'ultimo chilometro e vediamo di fare al meglio. Quindi hai fatto altura, farai le volate, tu hai capito che corridore sei? Ma per ora sono tutto fare. No, vediamo nel corso di questo giro un po' cosa posso fare. Sicuramente punto a far bene al cronometro e poi vediamo per le tappe come aiuterò sicuramente sia in salita che in piano i vari capitani. Quindi il tuo ruolo, diciamo, nelle volate potresti essere un assist man praticamente. Faccio una metafora col calcio perché tu vieni dal calcio. Il tuo ruolo nel calcio qual era? Ah, io ero un terzino, l'assist un po' troppo vicino al gol, quindi no, però sì, dai. Facciamo il terzo passaggio prima del gol. E fai una storia simile a Remco, tutti gli ex calciatori diventano grandi cronomen, com'è possibile? Ah, questo non lo so, no. Diciamo che mi sono trovato fin da subito bene a crono perché venendo da un altro sport non ero così abile a stare in gruppo e la crono essendo da solo è solo questione di spingere, ovviamente guidare la bici però un minimo, non... e adesso sto cercando di trovare la mia strada anche su strada. Ok, fin qui era la parte facile, adesso ti faccio delle velocissime domande per un test di ammissione al Giro d'Italia, visto che è il tuo primo. Vediamo se sei promosso. Completa la frase, hai voluto la bicicletta e adesso? Pedala. Cosa vuol dire indossare la maglia nera? Ultimo in classifica. Quale di questi ingredienti non va nel pesto alla genovese? Aglio, prezzemolo o pinoli? Prezzemolo. Chi ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno? La ragazza... un vuoto, è la che canta la noia. Vabbè, dai, già un ottimo risultato. Angelina Mango, in che regione italiana si trova il Monte Grappa? Veneto. Quanto tempo deve passare prima di fare il bagno dopo aver mangiato? 2 ore. Chi interpreta la canzone Sarà perché ti amo? Passo. Quale storica classifica è tornata al Giro d'Italia quest'anno? Passo. Chi è il telecronista del Giro sulla Rai? Passo. Stavi andando fortissimo, hai avuto una flessione, ti riscatti con l'ultima, visto che sei un ex calciatore. Come si chiama l'allenatore della nazionale di calcio italiana? Passo. Va bene, non mi ricordo quanto hai fatto, ma diciamo che l'hai passato lo step. Sufficienza. No, ho calcolato di arrivare al 60, perché il mio obiettivo è il 60. Ciao, grazie mille. Ciao. È molto giovane Lorenzo Milesi, quindi puntava al 60, penso intendesse il voto di maturità, non so, comunque un 6 su 10. Ai miei tempi 60 era il massimo, ma comunque ha passato questo test, per cui è un altro. Per ora non mi ricordo, non mi sembra che abbiamo... Siamo stati buoni, diciamo che sono cattivo queste domande, ma non è vero. No, non certo sono certo se cattive, pensa perché... se facessimo questo test al corridore più veterano e più preparato del gruppo. Ma lo fa lui a noi il test. E non lo passeremmo. Non lo passeremmo. Stiamo parlando di Domenico Pozzovivo, il nostro pozzo di scienza, che ci introduce la quinta tappa del Giro d'Italia in programma domani. La quinta tappa del Giro, che parte da Genova per concludersi a Lucca dopo 178 chilometri, e un'altra tappa adatta alle ruote veloci. La partenza ufficiale verrà data davanti allo scoglio dei 1000. Come dice il nome, da qui presero le mosse e partirono i garibaldini per la spedizione del 1860 ed i primi 35 km sono piuttosto vallonati lungo l'Aurelia. Da segnalare soprattutto la salita della ruta, che è un po' quella più lunga, ma comunque su pendenze non ostiche, si aggira intorno ai 3 km. Dopo una fase pianeggiante breve si approccia il passo del Bracco, che ha 14 km di lunghezza, ma si divide in due sezioni di circa 5-6 km con pendenze mai superiori al 6-7%, intervallate da delle sezioni di pianura falso piano, e poi una lunga discesa che riporta nella valle del Vara e un'ottantina di chilometri invece, diciamo, vicini alla costa tirrenica nella Versilia, in cui si attraversano comunque tanti centri abitati e ci saranno i soliti, diciamo, ostacoli urbani come le rotonde, sparti traffici. Questa fase interamente pianeggiante si concluderà ai 25 dall'arrivo, quando si approccerà il Monte Magno dal lato di Camaiore, che è una salita piuttosto tortuosa con dei tornanti, ma su strada non particolarmente stretta e pendenze intorno al 4-5%. Dalla cima mancheranno poco più di 20 km, velocissimi, su una strada che ha la tendenza a scendere soprattutto fino ai 6-7 km all'arrivo, che è la famosa strada della Freddana, e quindi l'arrivo sarà molto veloce alla città di Lucca, e sarà, diciamo, un arrivo molto caratteristico, perché si percorrerà in senso antiorario metà della strada dei vialoni che circondano la cinta muraria che rende così famosa la città di Lucca. Marta Bacigalupo, eminenza della città di Genova, ma è vera questa cosa che ho letto sui giornali, che da domani lo scoglio verrà ribattezzato, da scoglio dei 1000 diventerà scoglio dei 170 come i partecipanti a questo Giro d'Italia? Può essere, ma dovremmo chiederlo a El Professor, perché è stato così esaustivo che a un certo punto mi aspettavo tipo che sapesse anche consigliare la focacceria giusta mia di fiducia, sa tutto. A proposito, faccio un appello, mamma, papà, per cortesia domani preparate una cornucopia da prendere al volo. Mi unisco a questo appello. Quando ho parlato di scoglio e tu hai detto il professor, ho avuto un brividino, ma questi sono altri temi che non riguardano il Giro d'Italia né la tappa di oggi, volendo, se vogliamo, i luoghi della tappa di domani per la quale mi sa che ci tocca fare un pronostico. Sì, ci tocca fare il solito pronostico, che non sia Tadej Pogačar, unica regola prevista. Cominciamo da Michele. Io l'ho pronosticato già una volta, è andato benino, però secondo me è il giorno giusto per Phil Bauhaus. Marta? Mi associo, Baobao è assolutamente uno dei miei preferiti, lo vedo in crescita ed è anche il nome di uno dei miei gruppi musicali del cuore, per cui anch'io spero per lui. Bel tempo è maturo e mi sembra che tutti i segnali indichino che si va verso la vittoria del velocista più forte del mondo. Domani vince Enrico Zanoncello. Sarebbe una bella sorpresa. Io ieri ho indovinato il pronostico, ma non me ne vanto, a differenza di altri. Potrei ripeterlo. Io avevo pronosticato Milan, lo pronosticherei anche oggi, ma per non vincere facile dico Benjamin Thomas o Benjamin Thomas, che potrebbe partire in discesa, me lo immagino, ma forse è solo un sogno. Un sogno che si realizza è quello che sta finalmente, il momento che sta finalmente per arrivare. Ho ricevuto il file preziosissimo della nuova canzone, il nuovo singolo di Luca Pedalini, che adesso ci ascoltiamo insieme per la prima volta, e voi potrete trovarlo quando il podcast sarà uscito già sui canali, su YouTube in genere. Oh raga, fuori ora. Il che le sinfone ragazzo, per piccio ogni giorno, adoro i prosciutti, li mangia con fermo. No! Anche Pedalini. Come sillabe d'amore. Vabbè, uscita di controllo completamente questa faccenda. Che imbarazzo. Musica no. Un una gran pazzia pura. Io sono invidiosissima. Come spinge questo nuovo singolo? Un singolo di successo, c'è proprio un sound anche contemporaneo, oserei dire. Sì, non è molto sul pezzo questo Luca Pedalini. Ha parlato di magia. Sì, ma il pezzo deve essere La vita di Michele Florindo Callisto. Beh, ci sarà un Callisto. Ci sarà un remix, come si diceva una volta. Forse lo farà fare a Lazza. È un po' Lazza questo Luca Pedalini. La sua vita è pura follia. Non hai detto nulla, hai ascoltato... Sono tenuto a dire qualcosa? No, però hai avuto un omaggio da un autore, da un cantautore di questa levatura e non dici niente. L'anno prossimo Sanremo? E poi forse Eurovision? E poi forse... Chissà se questo è l'obiettivo di questo artista? Io credo che dovremmo smettere a questo punto di dire dove andiamo, in che alberghi dormiamo, perché io non ho nessuna voglia di trovarmi tutte le fan di Pelacci da mandare via con le manate, per cortesia, ci tengo alla mia privacy. Sì, vedremo comunque se si arriverà a Sanremo, se si arriverà all'Eurofestival che si sta avvicinando. Quando è che è l'Eurofestival? Credo oggi è martedì, stasera c'è la prima semifinale, se non perché ricordo oggi male. Per la prima volta è stato nominato mentre eravamo in auto, quando siamo passati in località Mango, che diciamo usciamo dai luoghi di Pavese per entrare in quelli di Fenoglio e giustamente anche per entrare nei luoghi dell'Eurofestival, che presto vedrà esibirsi sul suo palcoscenico il dottor Luca Pedalini. La vita di Michele è il titolo del singolo. Che poi non è detto che parli di Pelacci, cioè no, non alimentiamo Michele, la sua mitomania. Trovate nel video ufficiale Lyric, c'è un video. Il Lyric video, le parole, il testo, se non avete capito bene, compreso le parole nella nostra registrazione un po' artigianale. Ah, perché volevo proprio sapere chi è che interpretava Pelacci nel video a questo punto. No, è un Lyric video, ci sono solo le fortuna, parole. Per fortuna, ci mancava anche questo. Va bene, allora direi che con questo possiamo salutarci e il solito lancio, vi ricordiamo, noi siamo presenti sui diversi social, Instagram, Twitter o ex Twitter, Telegram nel gruppo, col gruppo Bidoni in Giro e anche col gruppo di Al Vento. Domani Marta si parte da casa tua e pronti follia, a partire? Follia, pronti a partire e quindi vi auguriamo buona serata, che stasera forse si mangia prima. Follia pura, ciao.